Capitolo 30. Sir William rimase a Hainsford soltanto una settimana, ma il suo soggiorno durò abbastanza per convincerlo che sua figlia era egregiamente sistemata e possedeva un marito e dei vicini quali non si incontravano di frequente. Finché Sir William rimase con loro, il signor Collins dedicò le sue mattine a portarlo fuori col suo calessino, mostrandogli la campagna. Ma partito lui, tutti tornarono alle consuete occupazioni. Elizabeth fu lieta di constatare che, nonostante questo cambiamento, il cugino non si faceva vedere di più, poiché impiegava la massima parte delle ore fra la colazione e il pranzo o a lavorare nel giardino o a leggere e scrivere, oppure a guardare fuori dalla finestra della sua biblioteca che dava sulla strada. La stanza in cui si riunivano le signore dava invece sul retro della casa. Sulle prime Elizabeth si era un po' stupita che Charlotte non avesse dato la preferenza alla sala da pranzo come camera di soggiorno. Era una stanza di dimensioni più giuste e aveva un aspetto più accogliente, ma si accorse presto che l'amica aveva avuto un eccellente motivo per la sua scelta, giacché il signor Collins sarebbe rimasto molto meno nella sua camera se esse ne avessero occupato una altrettanto piacevole, ed approvò Charlotte per la sistemazione. Dal salotto non si aveva alcuna vista sul viale, e così dovevano al signor Collins le notizie delle carrozze che transitavano e soprattutto del numero di volte che la signorina De Bourgh era passata col suo phaeton, cosa di cui non mancava mai di venirla a informare, sebbene si verificasse quasi ogni giorno. Non di rado ella sostava al presbiterio per intrattenersi qualche minuto a conversare con Charlotte, ma ben raramente si lasciava indurre a scendere dalla vettura. Furono pochi giorni in cui il signor Collins non si recasse a piedi fino a Rosings e non molti quelli in cui sua moglie non ritenesse necessario fare altrettanto, e fin quando Elizabeth non si fu resa conto che potevano esserci altri benefici da ottenere, non riuscì a spiegarsi il sacrificio di tante ore. Talvolta ricevevano l'onore di una visita da sua signoria e nulla di quanto si svolgeva nella stanza durante queste visite sfuggiva all'osservazione della dama. Indagava sulle loro occupazioni, guardava il lavoro di ciascun consigliando di farlo in altro modo, criticava la disposizione dei mobili o coglieva in ozio la domestica e ogni volta che accettava uno spuntino sembrava che lo facesse soltanto per il gusto di venire a scoprire che la signora Collins comperava troppa carne per una famiglia come la sua. Presto Elizabeth si accorse che sebbene quella gran signora non facesse parte della magistratura di pace della contea, era tuttavia un giudice quanto mai solerte per la propria parrocchia, della quale il signor Collins sapeva riferirle i più minuti interessi. Ed ogni volta che qualche contadino si mostrava incline ad essere litigioso, scontento o troppo povero, ella partiva alla volta del villaggio ad appianare i dissensi, a far tacere le lamentele, a far ritrovare il buon accordo e l'abbondanza a forza di rimbrotti. Il divertimento di pranzare a Rosings si ripeté un paio di volte alla settimana e se si eccettua che partito Sir William non ci fu più che un solo tavolino da gioco la sera, ciascuno di quei trattenimenti fu tale quale al primo. Gli altri impegni mondani erano pochi, dato che il loro tenore di vita del vicinato era in generale superiore alle possibilità dei Collins. Questo però non faceva dispiacere ad Elizabeth, la quale nel complesso passava il tempo abbastanza lietamente. C'erano delle mezze ore di conversazione con Charlotte e il tempo era così bello per la stagione che la godeva assai di rimanere fuori di casa. La sua passeggiata preferita, che ripeteva spesso mentre gli altri erano in visita da Lady Catherine, era quella lungo il boschetto aperto, che contornava quel lato del parco dove c'era un bel sentierino ombreggiato che nessun altro sembrava apprezzare tranne lei e in cui si sentiva al sicuro dalla curiosità di Lady Catherine. Con questo ritmo tranquillo, le prime 2 settimane del suo soggiorno fecero presto a passare. Si avvicinava la Pasqua e la settimana che la precede doveva portare una giunta alla famiglia di Rosings. Aggiunta che per un così piccolo ambiente aveva la sua importanza. Poco dopo il suo arrivo, Elizabeth aveva sentito dire che di lì a qualche settimana era atteso il signor Darcy, e benché vi fossero non poche persone di sua conoscenza che gli avrebbe preferito, la venuta di lui avrebbe portato qualcuno di relativamente nuovo da stare a osservare nelle loro visite a Rosings. Ed ella si sarebbe divertita a constatare quanto fossero vane le mire della signorina Bingley su di lui, sorvegliando il suo contegno con la cugina, alla quale Lady Catherine l'aveva evidentemente destinato. Questa parlava con la massima soddisfazione della venuta del nipote, si esprimeva di lui in termini altamente lusinghieri e sembrava quasi irritata di sapere che anche lei, Elizabeth, quanto la signorina Lucas, l'avevano già veduto diverse volte. Quando arrivò al presbiterio lo si seppe subito perché il signor Collins era rimasto tutta la mattina a passeggiare su e giù in vista degli appartamenti che guardavano sul viale di Hainsford, in modo da potersene accertare al più presto. E dopo aver fatto un bell'inchino, proprio mentre la carrozza svoltava nel parco, era corso a casa con la gran notizia. L'indomani mattina si affrettò a recarsi a Rosings per porgere i suoi omaggi. Due erano i nipoti di Lady Catherine cui questi omaggi spettavano, poiché il signor Darcy aveva condotto seco un certo colonnello Fitzwilliam, figlio minore di suo zio, Lord. E, con gran sorpresa di tutti, quando il signor Collins tornò a casa, i due signori lo accompagnarono. Dalla finestra della stanza del marito, Charlotte li vide attraversare la strada e, precipitandosi subito nell'altra sala, riferì alle ragazze quale grande onore le attendeva, aggiungendo: «Posso ringraziare te, Lizzie, di tanta cortesia. Per salutare me il signor Darcy non si sarebbe mai mosso così presto». Elizabeth non ebbe quasi il tempo di ricusare ogni diritto a quel complimento che lo squillo del campanello annunziò il loro sopraggiungere e poco dopo i tre signori entrarono nella stanza. Il colonnello Fitzwilliam, che apriva la strada, aveva una trentina d'anni e non era bello, ma era quel che si dice un gentiluomo per portamento e tratto. Il signor Darcy aveva il medesimo aspetto col quale era stato veduto nello Herefordshire. Presentò i suoi ossequi, con l'abituale riserbo, alla signora Collins e, quali fossero i sentimenti provati nei confronti dell'amica di lei, la salutò senza ombra di turbamento. Elizabeth ricambiò un cenno di saluto senza proferir parola. Il colonnello Fitzwilliam entrò subito in conversazione con la prontezza e la disinvoltura di un uomo ben educato e chiacchierò molto piacevolmente. Suo cugino, invece, dopo aver rivolto alla signora Collins un fugace commento sulla casa e il giardino, rimase seduto per un po' senza parlare a nessuno. Finalmente, però, le sue buone creanze si ridestarono al punto da chiedere ad Elizabeth notizie sulla salute dei suoi familiari. Ella gli rispose nel modo consueto e, dopo una pausa di un momento, soggiunse: «Mia sorella maggiore si trova in città da 3 mesi. Non le è mai accaduto di incontrarla?» Perfettamente consapevole com'era che ciò non si era mai verificato, desiderava constatare tuttavia se egli avrebbe tradito una qualsiasi conoscenza di quanto c'era stato fra i Bingley e Jane, e le parve che fosse un tantino confuso nel risponderle, che non aveva mai avuto la fortuna di incontrare la signorina Bennet. L'argomento fu lasciato cadere e poco dopo i due signori se ne andarono. Capitolo 31. Le belle maniere del colonnello Fitzwilliam furono molto ammirate alla casa parrocchiale e le signore ebbero l'impressione che gli avrebbe aumentato in modo considerevole il piacere dei loro trattenimenti a Rosings. Del resto, dovettero passare alcuni giorni prima che vi fossero invitati, dato che non c'era bisogno di loro finché c'erano ospiti in casa. E soltanto il giorno di Pasqua, quasi una settimana dopo l'arrivo dei due signori, tale onore venne loro concesso, e anche quella volta soltanto nell'uscire di chiesa furono invitati per la sera. Nell'ultima settimana avevano veduto pochissimo Lady Catherine e sua figlia. Il colonnello Fitzwilliam era venuto più di una volta a far visita al presbiterio, ma il signor Darcy si era fatto vedere solamente al servizio religioso. Naturalmente l'invito fu accolto e a un'ora conveniente raggiunsero il crocchio nel salotto di Lady Catherine. Sua signoria li ricevette urbanamente, ma era chiaro che la loro compagnia le era di gran lunga più gradita quando non poteva circondarsi di altra gente. Si dimostrò infatti quasi del tutto presa dai nipoti, ai quali rivolgeva continuamente la parola, soprattutto a Darcy, più che a qualunque altra persona nella sala. Il colonnello Fitzwilliam parve invece veramente lieto di vederli. Qualunque cosa era per lui un gradito cambiamento a Rosings, e per di più la graziosa amica della signora Collins le aveva molto colpito alla fantasia. Ora si sedette accanto a lei e conversò così simpaticamente del Kent e dello Herefordshire, del viaggiare, del restarsene a casa, dei libri nuovi e di musica, che Elizabeth non si era mai intrattenuta in quella sala con tanto piacere come quella sera. Chiacchieravano anzi con tanto brio e tanta disinvoltura da richiamare l'attenzione di Lady Catherine stessa, nonché del signor Darcy. Gli occhi di questo si erano ripetutamente posati su di loro con uno sguardo indagatore, e che tale sentimento fosse un momento dopo condiviso da sua signoria fu più palesemente rivelato dal fatto che egli non si fece scrupolo di esclamare: «Che cosa stai dicendo, Fitzwilliam? Di che state conversando? Che cosa vai raccontando della signorina Bennet? Lascia ascoltare anche me». «Stiamo parlando di musica, zia», egli rispose, quando non fu più in grado di evitare una risposta. Di musica? Allora parlate a voce alta, vi prego. Di tutti gli argomenti, questo è il mio preferito. Devo poter partecipare anch'io alla conversazione quando si parla di musica. C'è poca gente in Inghilterra, io credo che sappia trarre dalla musica un godimento più puro del mio, o che abbia per esso un'inclinazione naturale più felice. Se avessi studiato sarei stata un'ottima esecutrice. E anche Anne, se la salute le avesse permesso di applicarvisi, sono sicura che avrebbe suonato magnificamente. Come vanno gli studi di Georgiana, Darcy? Il signor Darcy tesse un affettuoso elogio della bravura di sua sorella. Sono lieta di sentire così belle notizie sul suo conto, rispose Lady Catherine, e ti prego di dirle da parte mia che non può sperare di eccellere se non fa molto esercizio. Le assicuro, zia, che non ha bisogno di un simile consiglio. Si tiene costantemente in esercizio. Tanto meglio. Non sarà mai troppo. E quando le scriverò la prossima volta, la esorterò a non trascurarlo in nessun modo. L'ho detto tante volte io alle giovani che nella musica non si può raggiungere la perfezione senza applicarvisi con costanza. Ho ripetuto spesso alla signorina Bennet che non suonerà mai veramente bene se non si esercita di più. E sebbene la signora Collins non abbia il piano, ella sarà la benvenuta, come le ho spesso ripetuto, se vorrà venire a Rosings ogni giorno a suonare il pianoforte che c'è nella stanza della signorina Jenkinson. In quella parte della casa, sai bene, non darebbe noia a nessuno. Il signor Darcy sembrò un po' vergognarsi della cattiva educazione di sua zia e non diede risposta. Preso il caffè, il colonnello Fitzwilliam ricordò a Elizabeth la promessa fatagli di suonargli qualche cosa ed ella si sedette subito al piano. Egli accostò una sedia vicino a lei. Lady Catherine stette a sentire una canzone per metà e poi ricominciò a parlare come prima all'altro suo nipote, finché quest'ultimo si allontanò da lei e dirigendosi con la sua consueta decisione verso il pianoforte, si collocò in modo da dominare in pieno lo spettacolo della graziosa pianista. Elizabeth notò i suoi movimenti e alla prima interruzione opportuna gli si rivolse con un sorriso arguto per domandargli: «Hai intenzione di farmi paura, signor Darcy, che viene ad ascoltarmi con tanto sossiego?» Ma io non mi lascerò intimidire neppure se sua sorella suona così bene. Io sono tanto puntigliosa che non mi lascio mai intimidire dalla volontà altrui. Anzi, ogni volta che si tenta di intimorirmi, mi sento aumentare il coraggio. Non dirò che si sbaglia, perché lei non potrebbe certo pensare in buona fede che io mi proponga di spaventarla. E ho il piacere di conoscerla ormai da abbastanza tempo per sapere che lei si diverte molto a professare di tanto in tanto opinioni che in realtà non sono sue. Elizabeth rise di cuore di quel suo ritratto e disse al colonnello Fitzwilliam: «Suo cugino gliene racconterà di belle sul mio conto e le insegnerà a non credere una parola di quel che dico. È una bella sfortuna che abbia incontrato una persona così abile nel mettere a nudo il mio vero carattere in una parte del mondo dove avevo sperato di passare, lasciando di me discreta opinione. Ah, signor Darcy, è proprio poco generoso da parte sua di far accenno a tutto quanto lei aveva scoperto in mio sfavore nello Herefordshire. E poi, mi permetta di dirlo, è molto poco diplomatico, perché ciò può invogliarmi a renderle la pariglia. E allora potrebbero venire a galla cose che i suoi congiunti si scandalizzerebbero di sapere. Di lei non ho timore, disse il giovane con un sorriso. Mi dica tutto ciò di cui può accusarlo, la prego, esclamò il colonnello Fitzwilliam. Sono curioso di sapere come si comporta fra estranei. Allora glielo dirò, ma si prepara a sentire cose terribili. La prima volta che mi incontrai con lui nello Herefordshire, deve sapere, fu a un ballo. E a questo ballo che cosa crede lei che abbia fatto? Soltanto quattro giri di danza. Mi duole di darle un dispiacere, ma fu proprio così. Fece soltanto quattro giri, sebbene i cavalieri fossero scarsi, e per mia sicura conoscenza, più di una signoria rimase seduta mancata di ballerini. Non può negare il fatto, signor Darcy. Allora non avevo ancora l'onore di conoscere alcuna delle signore intervenute, all'infuori di quelle del mio gruppo. Verissimo, e nessuno pensa mai di farsi presentare in una sala di ballo. Ebbene, colonnello Fitzwilliam, che cosa devo suonare ora? Le mie dita attendono i suoi ordini. Forse, riprese Darcy, avrei fatto meglio se avessi cercato di farmi presentare. Ma io non sono proprio fatto per cattivarmi le simpatie degli estranei. Dobbiamo domandarne a suo cugino il motivo? fece Elizabeth rivolgendosi ancora al colonnello Fitzwilliam. Dobbiamo chiedergli come mai una persona intelligente, educata, un uomo di mondo, non è fatto per cattivarsi le simpatie degli estranei? Posso rispondere io alla sua domanda, disse Fitzwilliam, senza interpellare lui. E perché non ha voglia di prendersi quella briga? Certo, io non ho l'abilità che hanno alcuni, fece Darcy, di conversare con disinvoltura con persone che non ho mai visto prima. Non riesco a intonarmi ai loro discorsi o a mostrarmi interessato dei fatti loro, come sovente ho veduto fare. Le mie dita, ribatté Elizabeth, non si muovono su questo strumento nel modo magistrale in cui vedo muoversi quelle di tante donne. Non hanno ugualmente forza o velocità e non ricavano la stessa espressione. Però io ho sempre ritenuto che la colpa fosse mia, perché non voglio prendermi la briga di esercitarmi. Non è che io ritenga le mie dita meno capaci di un'esecuzione migliore di quelle di altre donne. Darcy sorrise e disse: Lei ha perfettamente ragione. Ha fatto assai miglior uso del suo tempo. Nessuno cui sia concesso il privilegio di ascoltarla troverà che a lei manca qualche cosa. Né lei né io ci produciamo dinanzi ad estranei. A questo punto vennero interrotti da Lady Catherine, che alzò la voce per sapere di che stessero parlando. Elisabeth riprese immediatamente a suonare. Lady Catherine si avvicinò e, dopo aver ascoltato per qualche minuto, disse rivolta a Darcy: La signorina Bennet non suonerebbe affatto male se si esercitasse di più e se potesse avere il vantaggio di un maestro a Londra. Ha un ottimo tocco, benché non abbia il gusto di Anne. Anne sarebbe stata una meravigliosa pianista se la salute le avesse consentito di studiare. Elizabeth fissò Darcy per vedere con quanto entusiasmo egli si associasse all'elogio di sua cugina, ma né in quel momento né in qualunque altro seppe discernere in lui alcun sintomo d'amore, e da tutto il suo contegno verso la signorina De Bourgh trasse questo conforto per la signorina Bingley. Che se gli fosse stata parente, ci sarebbe stata altrettanta probabilità che sposasse lei. Lady Catherine continuò a far commenti sul modo di suonare di Elizabeth, alternandoli con molti insegnamenti sull'esecuzione e sulla bravura musicale. Elizabeth li accolse con tutta la tolleranza dettatale dall'educazione e dietro preghiera dei signori rimase al pianoforte finché la carrozza di sua signoria non fu pronta per riaccompagnarli tutti a casa. Capitolo 32. La mattina dopo, Elizabeth se ne stava sola a scrivere a Jane mentre la signora Collins e Mary erano andate al villaggio per commissioni, quando uno squillo alla porta, segnale certo di visita, la fece trasalire. Non avendo udito un rumore di carrozza, pensò che non fosse improbabile trattarsi di Lady Catherine e con quel timore stava riponendo la lettera mezzo scritta per poter evitare il suo sfacciato interrogatorio. Quando la porta si aperse e, con sua gran sorpresa, il signor Darcy solo entrò nella stanza. Anche gli sembrò stupito di trovarla sola e si scusò della sua intrusione, adducendo di aver capito che tutte le signore fossero in casa. Poi si sedettero e, dopo che Elizabeth ebbe chiesto della famiglia di Rosings, corsero il rischio di cadere nel più assoluto silenzio. Occorreva perciò in ogni modo trovare qualche argomento. Risovvenendosi allora del loro ultimo incontro nell'Herefordshire, curiosa di sapere che cosa avrebbe detto a proposito della loro affrettata partenza, ella osservò: Com'è stata improvvisa la loro partenza da Netherfield il novembre scorso, signor Darcy? Deve essere stata una piacevolissima sorpresa per il signor Bingley vederli arrivare tutti così presto dopo di lui, perché se ben ricordo, egli non li aveva preceduti che di un giorno. Lui e le sue sorelle stavano bene, spero, quando lei è partito da Londra? Sì, benissimo, grazie. Ella sentì che non avrebbe ricevuto risposta più esauriente e, dopo un breve silenzio, soggiunse: Mi è stato detto, mi pare, che il signor Bingley non ha molta intenzione di ritornare a Netherfield. Non gliel'ho mai inteso dire, ma è probabile che in futuro egli vi passi ben poco del suo tempo. Ha molti amici ed è in un'età in cui le amicizie e gli impegni sono in continuo aumento. Se ha intenzione di soggiornare così poco a Netherfield, per i suoi vicini sarebbe meglio che vi rinunciasse del tutto, che allora ci sarebbe forse la probabilità di vedervisi fissare stabilmente una famiglia. Ma forse il signor Bingley non ha comperato la casa tanto per i comodi del vicinato quanto per i propri. Ci dobbiamo quindi aspettare che la tenga o la lasci seguendo lo stesso criterio. Non mi stupirei che la vendesse, fece Darcy, appena si presentasse un possibile acquirente. Elizabeth non rispose. Aveva Timore di continuare a parlare di quell'amico e non avendo altro da dire, decise di lasciare a lui, questa volta il fastidio di trovare un altro argomento. Egli capì al volo e subito prese a dire: Questa casa ha l'aria di essere molto comoda. Lady Catherine deve averla migliorata molto, credo, da quando è giunto Hansford il signor Collins. Lo credo anch'io, e sono certa che non avrebbe potuto esercitare la sua generosità verso un beneficiario più riconoscente. Il signor Collins sembra aver avuto molta fortuna col matrimonio. Davvero. I suoi amici possono rallegrarsi che gli abbia incontrato una delle pochissime donne di buon senso capaci di accettarlo, o che accettandolo lo potessero rendere felice. La mia amica è una persona molto intelligente, benché non possa dire di considerare le sue nozze col signor Collins come la decisione più saggia. Tuttavia, sembra essere felicissima e sotto un certo aspetto ha fatto sicuramente un ottimo matrimonio. Deve essere molto piacevole per lei aver trovato a casarsi a così breve distanza dalla sua famiglia e dagli amici. Breve distanza, lei la chiama? Sono quasi 50 miglia. E che cosa sono 50 miglia di strada buona? Poco più di mezza giornata di viaggio. Sì, per me è una brevissima distanza. Io invece non avrei mai considerato la vicinanza come uno dei vantaggi del suo matrimonio, esclamò Elizabeth. Non avrei mai detto io che la signora Collins si era accasata vicino alla sua famiglia. Questo prova quanto lei si è attaccata allo Herefordshire. Qualunque località, oltre le immediate vicinanze di Longbourn, a lei sembrerebbe lontana, mi pare. Così dicendo, fece un mezzo sorriso che Elizabeth credette di comprendere. Doveva ritenere che la stesse pensando a Jane e a Netherfield, e gli rispose arrossendo. Non voglio dire che una donna non possa accasarsi vicino alla sua famiglia. Lontananza e vicinanza debbono essere relative e dipendono da molti mutevoli circostanze. Dove i denari possono permettere di considerare le spese di viaggio come cosa di poco conto, la distanza non è un male. Ma qui il caso è diverso. I coniugi Collins hanno un buon reddito, ma non tale da permetter loro di fare viaggi frequenti. Sono convinta che la mia amica non si direbbe vicina a casa, neppure se abitasse a meno di metà strada. Il signor Darcy accostò un po' più la sua sedia e le disse: Ma lei non ha ragione di nutrire un così forte attaccamento per una località. Lei non può essere stata sempre a Longbourn. Elizabeth lo guardò sorpresa. Il giovane dovette allora provare un sentimento diverso. Tirò indietro la sedia, prese un giornale dalla tavola e, dandogli un'occhiata, le domandò in tono più freddo: Le piace il Kent? Seguì un breve dialogo a proposito della regione, calmo e conciso da ambo le parti, e presto terminato dall'entrata di Charlotte con la sorella, di ritorno dalla passeggiata. Quel tête-à-tête le sorprese. Il signor Darcy spiegò l'errore che l'aveva spinto a importunare la signorina Bennet, e dopo essere rimasto seduto ancora qualche minuto senza dir granché a nessuno, se ne andò. Che cosa può significare tutto questo? Disse Charlotte appena egli fu uscito. Deve essere innamorato di te, cara Lizzie, altrimenti non ci avrebbe mai fatto visita in modo tanto familiare. Ma quando Elizabeth riferì dei suoi silenzi, la cosa non parve tanto probabile, nemmeno per il desiderio di Charlotte, e dopo varie altre congetture finirono per supporre che la sua visita fosse motivata soltanto dalla difficoltà di trovare altro da fare, cosa abbastanza spiegabile data la stagione. Tutti i divertimenti all'aperto erano cessati e in casa c'era Lady Catherine, c'erano dei libri e una tavola da biliardo, ma gli uomini non possono rimanersene sempre in casa. E nella vicinanza del presbiterio o nel piacere di recarvisi in passeggiata o in quello di intrattenersi con chi vi abita, i due cugini trovarono da quel momento sufficiente tentazione per venirci quasi ogni giorno. Venivano a far visita a ore diverse della mattina, talvolta insieme, talvolta separatamente, e di tanto in tanto persino accompagnati dalla zia. Era chiaro a tutti che il colonnello Fitzwilliam veniva perché stava volentieri in loro compagnia, circostanza che naturalmente non poteva che accrescere i suoi meriti, e dal piacere che provava a stare con lui, non meno che dalla sua evidente ammirazione per lei, veniva fatto a Elizabeth di pensare al suo antico favorito, George Wickham. E sebbene paragonabili, si accorgesse che il modo di fare del colonnello Fitzwilliam era meno seducente, trovava in lui una mente superiore. Ma perché il signor Darcy venisse con tanta frequenza alla casa parrocchiale era più difficile da capire. Non poteva essere per amore della compagnia, dato che sovente se ne rimaneva lì per 10 minuti di fila senza aprir bocca. E quando finalmente parlava sembrava che fosse per effetto di necessità piuttosto che per desiderio spontaneo, un sacrificio alle convenienze sociali piuttosto che un piacere per sé. Di rado appariva veramente animato. La signora Collins non sapeva come regolarsi con lui. Il fatto che il colonnello Fitzwilliam ridesse talvolta di quel suo mutismo stava a dimostrare che di solito era diverso da quello che Charlotte conosceva per sua personale esperienza. E poiché ella era desiderosa di credere che tale cambiamento fosse effetto d'amore, e oggetto di quell'amore, la sua amica Lizzie, si mise seriamente all'opera per cercare di scoprire la verità. Prese ad osservarlo ogni volta che andavano a Rosings o che lui veniva a Hensford, ma senza approdare a un granché. Era ben vero che egli guardava parecchio la sua amica, ma sull'espressione di quegli sguardi si poteva discutere. La fissava serio e penetrante, ma Charlie si domandava se in quello sguardo ci fosse molta ammirazione. Talvolta egli sembrava soltanto assente. Un paio di volte aveva insinuato a Elizabeth che poteva darsi che egli avesse un'inclinazione per lei, ma Elizabeth aveva sempre riso di quell'idea e la signora Collins non aveva ritenuto opportuno insistere sull'argomento per tema di destare speranze, forse destinate soltanto a venir deluse, poiché secondo lei non v'era luogo a dubbio che tutta l'antipatia della sua amica sarebbe svanita il giorno che l'avesse potuto crederlo in proprio potere. Nei suoi affettuosi progetti per Elizabeth, ella auspicava talvolta che sposasse il colonnello Fitzwilliam. Questi era senza confronto il più simpatico. Aveva senza dubbio dell'ammirazione per lei e la sua posizione sociale era tutt'altro che disprezzabile, ma a controbilanciare quei vantaggi, il signor Darcy, come patrono ecclesiastico, godeva di vasta autorità, mentre suo cugino non ne aveva affatto.